Qual è, secondo voi, la più importante invenzione del secolo a partire dalla fine della Seconda Guerra Mondiale? Internet. Ah, Internet, perfetto, Internet. È un'esperienza socializzante. Quando è che non diventa un'esperienza socializzante? Quando ci nascondiamo dietro la maschera di Internet. E allora diventiamo dei formidabili odiatori seriali. Ce la prendiamo con le fragilità degli altri. Le macchine. Le due ruote erano già inventate prima, no? Ma dopo la Seconda Guerra Mondiale, lo Stato sociale. Cioè, lo Stato sociale è la grande invenzione degli ultimi 75 anni. Gli inglesi lo chiamano welfare state. Perché è un'invenzione formidabile? Perché ad un certo punto, alla fine delle due guerre mondiali, dopo tutto quello che era successo, ci si è resi conto che il mondo doveva ripartire. Le nazioni decisero di unirsi, la Società delle Nazioni prima, l'ONU, e creò le condizioni per lo Stato sociale, cioè permettere a tutte le persone di accedere a servizi a carattere sociale che quindi colmassero i divari e le differenze, no? Per cui i più fragili, visto che parliamo di fragilità, avevano diritto a essere aiutati, le differenze di genere a essere superate, il mondo del lavoro, il regime pensionistico, il mio ad esempio, è un servizio proprio, come posso dire, frutto e figlio del welfare state, dello Stato sociale. La possibilità di accedere a un servizio per ragazzi che stanno passando un momento difficile magari e di poter stare all'interno di questo servizio gratuitamente. Sono 75 anni che la scuola è gratuitamente aperta per tutti. L'accesso che avete alle cure mediche è un accesso gratuito. Cioè è un'invenzione straordinaria che è stata messa in crisi, perché come tutte le esperienze sociali è un'esperienza estremamente fragile, perché è sempre messa in discussione dall'individualismo, dal sovranismo, dal complottismo, dalle idee che lo Stato sociale è un qualcosa che andrebbe abbattuto a favore del libero mercato. Oh, che bello! Qual è il compito dello Stato sociale? È quello di garantire, creare una resilienza trasformativa. La resilienza, sapete, no? È come essere come i giunchi, un po' come le canne di bambù. Noi possiamo anche essere scossi, possiamo essere anche piegati da tutto questo, ma la resilienza ci permette di non spezzarci, cioè di venire anche a capo magari del trauma tante volte e di renderci forti proprio attraverso quella fragilità, attraverso quel trauma. Quindi la resilienza trasformativa è uno dei caposaldi, uno proprio dei principi dello Stato sociale, che si declina poi in altre cinque categorie, che sono il prevenire. Non dobbiamo aspettare che si crei una condizione critica. Se tutti quanti, visto che prima si parlava di Greta Thunberg, ci attrezzassimo per fare qualcosa di sostanziale, di definitivo, di vincente nei confronti del cambiamento climatico, evitiamo magari che il mondo si saturi e scoppi. La seconda, preparare le condizioni migliori perché tutte le persone indistintamente abbiano il diritto alle pari opportunità. Guardate che c'è l'agenda del consumo sostenibile 2030 che dice che non dobbiamo lasciare indietro nessuno, proteggere. Dobbiamo proteggere le persone fragili, non dobbiamo lasciarle indietro, non dobbiamo dimenticarci di loro. L'Italia, che avrà tanti difetti, ha la miglior legge sulla psichiatria del mondo, che è la famosa legge Basaglia, che è una legge che ha permesso di chiudere i manicomi. Le persone fragili vengono messe in manicomio. Qua in Trentino ce n'è uno, a Pergine. Ma aperto? Vecchia struttura. No, è chiuso. Perché questa legge vi ha fatti chiudere, per fortuna. Promuovere, cioè mettere in campo risorse. Nella loro fragilità, tutte le risorse sono fragili. Soprattutto noi che siamo operatori del sociale, lavoriamo dentro risorse che sono fragili. Possiamo avere un'ottica aziendalista quando parliamo appunto delle persone. E poi l'ultima cosa, trasformare. Se non trasformiamo le cose, rimarremo sempre fermi su un eterno presente, che è un eterno presente che, essendo eterno, non contempla l'esistenza di un futuro. Se non proviamo a cambiare lo stato delle cose, e questo i nostri governi, tutti quanti, spero, incominciano a prendersi le considerazioni di tutto questo, non è che abbiamo delle grandi prospettive per il futuro. Da questo punto di vista, gli elementi del cambiamento siete voi, i protagonisti siete voi. Diamo proprio credito pure alle vostre fragilità.